cose che già. Mi ho fatto una bella postazione, mi ho portato un po' di roba dal garage, mi ho messo ordine e ci sono tutte le apparecchiature, ho comprato dei mobiletti con le ruote bellissimi, sono dei porta televisori, porta tutto, però sono dei Nintendo che hanno 6 piani e ci ho messo le apparecchiature migliori che ho, poi c'è un come si chiama con tutti i microfoni da base, tutta la roba bella me l'ho portata, però che ce l'ho per dormo manco perché la casa è quella, però forse la camera la ricaviamo un altro camerino qui, perché è troppo grande della camera da letto, è balla grande e quindi così non rompo le scatole a nessuno. Domenico, capri due, ti rilancia, vai! No, io mi piace la roba bella, sono 38 anni che modulo domenica, e l'occhio vuole la sua parte, io sono sempre con i vecchi circuiti elettronica, con i circuiti elettronica nubi, sempre affascinato dalla roba, no, di quella roba lì ne fusco, quando ne voglio, no, niente, voglio una... Ma come si chiama? Uno di quegli alimentatori belli con lo strumento che chiama il trasformatore di via. E lo acquisterò, usando adesso che con 105 euro l'ha comprato, ma anche se ne spero 150, però che sia una bella cosa, perché l'occhio vuole la sua parte, io so quello, mio c'ho anche apparecchiature che conserve da anni, però volevo vederle ancora, mi rincuorano, hai capito? Sono nostalgico di queste cose. Adesso sto facendo costruire dal falegname un mobile per fissare il PC 312 ricevitore, e quello lì c'ha più di 60 anni, te lo farò vedere quando verrai a trovarmi appunto. E così, non giusto perché per passione, poi va bene anche una batteria che ne ho 2 o 3 da 100 ampere, riprendi a tu. Già, poi vabbè, la passione è passione, anche quello è vero, anche lui che vuole la sua parte, e via via, no, se no già, l'alternativa c'è sempre, per dire. Vabbè, detto questo, rilanciamo Domenico, dove sei arrivato Domenico? Ok Domenico, ok, fine settimana, se ci sentiamo dopo, buon tutto, vai Gianni per i saluti. Grandi sacrifici, quindi stavo parlando con il mio figlio che vuole fare quel gioco alle partiti e quel mestiere lì lo voglio fare praticare col Puma, lui è fissato col tigre, e ho detto quando ci fai un giorno o due vedrai che te ne passa la voglia dopo, comunque non è. Di nuovo buona questa in greca e buon tutto a pretore del tirti, riprendi Antonio. Ciao Domenico, buon tutto e buon fine settimana se non ci ascoltiamo quando riscendi. Ciao. Breco. Registrato Breco, avanti il break. Sì, buonasera, ciao Antonio e ciao Gianni. Domenico, se mi ascolti, ciao anche a te, ti ho sentito l'ultimo passaggio che stavi chiudendo, c'è qualche altro? Ciao Roberto, in compagnia di Gianni Capridue, c'era Sandro la Papatango che è entrato solo per i saluti e Domenico ovviamente. Avanti Gianni. Sì, Roberto, buonasera, salutoni, ben sentito, ho parlato di te con Antonio che sono venuto a trovarti ieri perché ero solo lì là, e si è dovuto riandare mio figlio perché non erano passati su, di andato con 350 euro in tasca, Roberto, 528 euro ha pagato per cambiare il nome al libretto. Addirittura per fare un passaggio, 500, quelli sono soldi proprio buttati, è una vergogna italiana. Stavo guardando Gianni, com'è c'hai quel 16? È bello segnale da 9 a 9.10, 9.15, poi scende di nuovo. Adesso fanno lo normale. Adesso hai aumentato, confermi? Sì, allora ti stai aiutando, no? Come non detto, allora va bene. Sto usando l'aggiante, io ho fatto un contro box a 3 canali, adesso le sto cercando un commutatore e ne sto costruendo e l'ho fatto, questo della Minage, non l'ho fatto io, però siccome ho dei connettori e ho dei vecchi apparati a 6 canali, devo recuperarne e il commutatore ne faccio uno a 6, hai capito? Non è molto difficile, c'ho anche il contenitore dove metterlo nella miniera, bello, e niente, e così. Sto usando questo lì, là non sto usando a 40 canali, gli altri lì, sono a 6, però non sto, sto usando con l'apparecchio 1 del CP, riprendi? No, arrivi in 9 qualcosa, così pulito, senza niente, con l'altro arrivi 9:15. Segnale ottimo, radio buona. Ok, avanti a tu. No, il tuo segnale è sempre bello, squillante, poppante e di luce. Io come ti sto arrivando, Roberto? No, tu sei sempre 9:40, radio ottima, super 5 stereofonica, come si dice. KK, e allora che ci racconti, Roberto? Nuda, gioco un bel strappo, ci credi, sono un po', ieri notte ho dormito male perché ero tutta la notte, non so per quale motivo, sveglio, forse stanchezza, quando sei stanco poi ti svegli, mi sono collegato subito, relativamente subito, ho preso il sonno verso le 10, poi alle 4 di mattina ero già sveglio, ho fatto un paio di pisolini e poi ti risvegli, ho dormito male, dai, e sono tutto suonato da ieri notte. Ah, vabbè, adesso cosa succede, va bene, lascio anche a te e poi girare per Gianni, dai. Via Gianni, sta dicendo Gianni, sta dicendo c'è un ricevitore, ma quello che hai detto a me è quello aeronautico. No, quello è un, diciamo, l'hanno percorso, mi sembra che sta a 7, a 18, non me lo ricordo, 312, quello che faceva fare il mobiletto, la falegname, ok, a favole metalliche, è giusto per averlo esposto, questo. No, cioè quello che ti stavo dicendo, aeronautico, quello proprio, lì c'è trasmettitore che c'ha l'elicottero, lo vedo. Capite, sono delle cose, pure cose, se c'è lo spazio di metterlo sono anche carine da inserire nella stazione, sono cose belle, dai. Ok, avanti, qualche. Ho intravisto quando è che sono passato, mi sembra mercoledì, ti ho, possibile che ti abbia visto vicino a Via Rizzetto, qualche. Capa. E sono passato io, ti ho intravisto di sfuggita, ho detto a me mi sembra Antonio. Ehi, di pomeriggio? No, mi sembra che era di mattina, se non sbaglio. Mattina verso le 11, 11 e mezza, boh. Sì, è probabile, sì. È morto, Iri. Ehi. Dimmi un po', cosa, non si è più sentito, non è che ti ha tirato molto, però non ho più sentito a Claudio, cosa gli è successo? No, non è che lo stia entrando molto, non sta entrando per niente, boh, non capisco il perché, boh, non so cosa gli è successo. Ma lo sta dicendo anche ieri a Gianni, gli ha detto, non ho più sentito a Claudio. Boh, non lo so, no, ci dovrei andare a trovarlo a casa. L'ultimo mi aveva detto che era molto impegnato al lavoro, poi, boh, non lo so. E il nostro lavoro, purtroppo il lavoro suo, purtroppo, buon per lui, il lavoro suo, ti prende, lo impegna parecchio, dai, meglio che ci sia sempre con quel lavoro. Se sei un po' a lui, già detto sempre, salutare, ma faccio il lavoro, non l'ho più sentito. Niente, così magari il trattacco, so che è Claudio, sto lavorando lì, e come si chiama, è uno stress a viaggiare ogni giorno, e sì, magari ci sono le giornate negative anche, sai che l'indomani devi andare di nuovo, sì. E molte volte la radio rimane spenta e riprende a posto. Lo so già, però un attimo un altro passaggino può sempre farlo, dai, giusto, non dico ogni giorno, ma quando capita, almeno a sentirsi, diciamo, e la nostalgia si sente, però, vai Roberto. Sì, certo, non dispiace. Perché erano di quelli più assidui, così lo stesso Giulio Dollaro, questa mattina ero in zona, che l'ho troppo in fretta, volevo passare al suo lavoro, però poi ho detto no, devo rientrare in officina perché ero solo, nel senso c'era solo mio fratello per non lasciarlo da solo, se no passavo per vedere un po' che cosa voleva fare perché non l'ho più sentito da parecchio. No, Giulio Dollaro l'ho sentito domenica pomeriggio, di prima pomeriggio. Tranquillo, siamo fatto una bel questione, anche abbastanza lunghetto. E niente, eravamo tutto ok, Giulio Dollaro sta mangiando poco, anche lui per questioni di lavoro, di cose, però già non ci siamo sentiti. Avanti, già. Infatti, la domenica Giulio, più di una volta abbiamo fatto un questione anche di un paio d'ore. So che ognuno ha i suoi impegni, però io ho anche il numero del cellulare, quando volete si può anche fare uno squillo, capito, ci mettiamo, se vogliamo, abbiamo voglia, se non abbiamo impegni di chiacchierare la domenica, tanto io sono sempre in casa, sono e adesso devo andare anche a trovare questi vecchi cipi di ufficiali che ho detto anche a Roberto. Oh. 27 anni che non li vedevo, persone veramente chiamate, papà e figlio, poi ci sono i cugini di questo, c'hanno ancora gli apparati. fantastico. Mi ha detto Falco grande, ecco, l'antenna devo mettere subito, ho detto di collegarmi su internet a mettere la mano, ma lui c'ha l'inuiti come il mio, vabbè. E c'ha il microfono che piace a me attaccato, questa lenta che mi ha proposto nell'epoca la faccio mentale con l'eco, ma arrivava una schioppettata quando parlava, vabbè. Ma tu sempre da muro hai modulato, Gianni, o anche da altre parti? No, io sempre da qui, diciamo la copiata all'inverso, prima abitavo in un'altra casa per la più su di questa, e poi niente, l'avevo piazzato quando avevo fatto la casa nuova, però allora dove lavoravo all'impresa, hai capito, e non ce n'era molta voglia, però il baracchino a casa c'era sempre, poi mi sono tornato e sono andato a abitare un'altra casa che era vicina a questa, quindi non li ho piazzato, l'ho piazzato qui e l'ho piazzato di nuovo nell'87, però era piazzato nel senso che l'ho rimesso a prendere un modulare, però il baracchino era sempre attaccato all'antenna, lo accendevo e facevo ascolto e chiacchieravo con gli amici di provare, però poi era il bambino piccolo che era, e quindi molte volte se ne voleva fare a meno, lo puoi accedere, perché temevamo Massimo di governato Claudio che ha scambiato il giorno per la notte, eravamo 4 mesi senza dormire, quindi abbiamo preso tutte le cautele possibili, poi sono diventati grandetti, gli apparecchi li ho portati in garage per non starci sopra e tutte cose belle, però il baracchino dal 72 non mi è mai mancato, quindi ho trovato, anzi per dirne una, vabbè, il primo digitale che ho comprato, l'Intec 410 in garage, lo prendi a tu. C'è cosa bella, c'è cosa bella. E purtroppo, tornando a quel discorso, bisogna avere il tempo anche per poter modulare, ovviamente. Però dico io, entrare sì un attimo, dare saluti, cioè è un attimo, non è che stai ore e ore con tutto il discorso, vero? Sì, capo, io ero così prima, all'inizio, i primi anni, tutti i giorni attaccato al baracchino, non aspettavo altro, vabbè c'era un sacco di gente, c'era divertimento, un sacco di cose, adesso purtroppo siamo pochi, molte volte ci sono io, accendo e non c'è nessuno, o viceversa, magari chiamano gli altri e non ci sono io, ci siamo un po' ridotti come numero, però ci sentiamo sempre un piacere, dai, non c'è problema. Stavo dicendo, Gianni, ma tuo padre perché utilizzava il baracchino, lo so, anche lui? Negativo, dopo l'ha comprato a me perché c'era mio zio, qui non mio zio, una persona che adesso abita a Chiaramonte, persona grandissima, Pasquale era Biete, era in estate questa roba, era proprio, no, l'anno prima, il 71 era, e veniva da continente questo amico mio, questo amichetto che per lavoro erano dovuti partire da Muros, sono andati a finire a Sassuolo e sono stabiliti e sono ancora lì per sempre, però venivano in fine e un giorno lo vedo questo dentro un R6 parlando da sotto, ma poi ha girato la testa, ha girato, ma mi sono bussato il petto, ma cosa posso parlare, ma cos'è questa roba, una radiotrasmittente, allora vabbè c'era la propagazione, si sentiva e subito mi aveva affascinato, cioè aveva il toccare in 5024. Mio zio che abitava vicino a Ariete, la scapola, anche lui si era invalido di questa cosa, figlia va e se la compra, come rientrava da scuola, dalle scuole medie, ero sempre dentro la macchina perché che la prendo ne aveva e stavamo lì fino anche alle 10 di notte e di mattina si è fatto così e a lui a me mamma per rientrare a cena, ma non gli riesce anche dare questa notte, e così poi ha piazzato la Grand Play lui e andavo lì a modulare e niente, allora ha iniziato a dare fastidio a casa, ha iniziato finché papo stavano andando a scuola perché di studiare non avevo voglia alle medie, siamo andati da pittura e scarpe, ho comprato il K2 a 5 canali, però non mi bastava, subito da parte l'avevo fatto modificare con la quartiere terra, poi mi è sparito questo e non l'ho più trovato durante il trasloco, ma è stato buttato. scatto e in mezzo al collo, perché già avevo un po' in fase 123 e allora facciamo solo una parte e niente, così è iniziata la mia avventura, ripresa a tu. Ma è così, è così. E sono belle avventure. Neanche una solo per un bisogno di disturbato di quest'uomo anziano ed è proprio allora come dove c'era proprio la frequenza piena, non potevo parlare, se dovevo ascoltare, sì. E almeno adesso a farli guardare per il giornale, io non ci credo che disturbava, metto mio cugino, metto prova che io vado lì, Robè, nera la faceva la televisione a favore, come schia nera, nera, aveva ragione, quindi solo dopo il telegiornale potevo modulare. Poi prima la televisione veniva vista tutti i giorni, c'erano pochi canali, i segnali non erano forti, erano proprio limite, adesso invece i segnali sono molto più forti, quindi diciamo, le postazioni di trasmissione sono tutte molto più efficaci rispetto a prima. Poi non c'era muro, non c'era solo il primo canale, Babbo era venuto a Coso, aveva costruito all'epoca l'antenna Paulotto, erano diventati amici con Babbo Paulotto, e aveva fatto l'antenna del secondo canale, se ne è andato, non riceve, poi si mette Babbo, non so cosa cavolo ha fatto, e non ricevevano il secondo canale, poi tutti gli altri hanno copiato e due canali non c'è, con effetto leve che non ti dico, bisognava guai se mi fanno la sfida, che c'era sposato, c'era di mamma, e in mezzo alla carabiniere erano fuori, l'altro figlio era fuori che la carabiniere, quindi erano a trarre, c'erano sempre a casa, naturalmente facevano anche la roba loro, mamma e nonno, poveretti. E nulla, guai se si piattava, quando c'era il telegiornale, sì, mia sorella, nonno, subito come iniziava la sigla, metteva il dito nel naso, metteva, stati zitti. Nell'arma Gianni? No, mio padre è ferrovia dello Stato. Ferrovia dello Stato, 40 anni ha fatto le ferrovie dello Stato. E era nell'arma il marito di mia zia, la sorella di mamma e il fratello di mamma. Però lui era sempre a Felizia e lì è rimasto. E anche io ero nell'arma tanti anni fa. E poi ho fatto altre cose, poi e così. E tanti anni fa però c'ero, lo per il 78 K. Sentito. Sto sempre delle cose, delle esperienze belle che rimangono. E vanno più che bene, Gianni, più che bene. Caspitina, era quello bene. Vai. Ma io adesso andò. Con Babbo mi subito stamattina, non ho il coraggio di scendere a casa perché la casa è vuota. Guai se io, Robè, non avevo avuto queste radio a parlare con voi o ascoltare. Molte volte che sono solo, mi viene questo malumore, se mi trovo a casa che è uscita mia moglie, che non sono, mi viene questo malumore, guarda, di nostalgie, di cose. E allora me ne salgo alla radio, Robè, prendo la roba fresca ancora e mi metto a fare ascolto, capito, guai se non avevo avuto il baracchino. Sono una persona sana almeno, dai, non c'è niente da dire dal punto di vista, meglio di stare buttato al bar. Bravo, no, per la parte a centro, già mi posso bere, che come si chiama, acqua turca, caffè, ma prima per vedere quando eri all'impresa, come ti ricordi, compravamo alle 11 e mezza, avevamo a fare la fotocorre, 10 litri di vino, anche se eravamo diventati in quarto, però prima ho detto, non c'era, come si chiama, tutte queste leggi che sono uscite, bello che ci sia, e poi ero anche più giovane, Robè, adesso quando mi dicono non ho mangiato già lo prego il filo qui, però non posso andare al bar come fanno certi con la birra per il tavolo alle prendere un altro, io ho fatto ci farlo né a giocare a carta, Robè, né a niente, perché sono una persona che deve stare con la famiglia, capisci, posso entrare a prendere un caffè, se incontro a te ti invito all'altra a quelli che ci sono, però non è un vizio anche di stare buttato al bar. No, io lo stesso, io appoggio tutto quello che hai detto, perché il bar non ha senso stare al bar e appoggio anche Roberto, perché non ha senso, si capita un amico, si entra, si prende un caffè e vai, no, poi lì stai buttato ore e ore, ma cosa fai lì ore e ore di buttato al bar? No, no, no, io preferisco meglio la radio di stare buttato al bar. Infatti quello lì la maniglia, detto, stiamo a fare la maniglia, e come si chiama, non sai cosa succede, vabbè. La maniglia, diciamo che lì è, bisogna fare il giro quello, deve fare il giro tu, quello deve fare un po' l'altro tu, e poi la roba che a me mi dà più fastidio, dicono che non si può fumare, vabbè, ci sono entrato l'altra sera, non si può riapparare di su fumo, ripeti, vabbè. Io non avrei neanche il tempo di andare al bar, ci credo, talmente sono impegnato di tante cose, proprio non ho tempo. Poi me ne vado in garage, dico, stamattina Claudio mi ha fatto beccare da freddore, dico, stiamo finendo il Suzuki 380, che l'ho passato, c'ha qualche cosa che è un tricilindrico, che non è, perché se ne ha rotto l'ingranaggio dello sfitterogeno, che è in plastica di quella moto, l'ho ordinato, l'ho ritirato dalla nostra auto, però a parte che c'è il manuale, poi è scritto anche in inglese, che non riesco a avviarla sulla moto. Io qua tutta la notte me ne faccio io questa, ero ognuno l'altra volta, ho dovuto venire Mariani a metterci le mani due, lui non è, ma è fasata come si chiama. Oggi sono spostate le puntine, come se appunto spessimetro, come dice, ma c'è qualche cosa che mi sfugge, la batteria è nuova, ed eravamo attaccati, c'era un freddo da morire, ero tipo leggero, e quindi mi ho beccato il mal di gola e il raffreddore di nuovo, riprendi tu. Purtroppo è così già, quando si sta al freddo, lo so, è bello fare delle cose, però quando si è una zona un po' fredda si è a rischio di prendere mal di gola e freddure, diciamo, cava cava, e vabbè, e magari sarà anche una sciocchezza, la sciocchezza si riesce a mettere a posto. La moto è nuova, il campionato è capito, sono delicatissime, è tutta basata, come si, cioè non sfugge, come la trassi, che è cilindro appunto molto superiore, con i gradi chiusi, con le puntine di apertura, e tutto l'ingranaggio posizionato con i fusili di primari, c'è qualche cosa che negli altri cilindri, forse, sto pensando anche che si sia consumata qualche camma delle fucine platinate a cui di rimanere ferma, tutto può succedere, la moto è impeccabile, infatti me la volevano comprare, però non la vendo, sono un 50, però non la vendo, la lascio lì, ho usato il Ducati, la controllo del 350, il Mark III, ogni tanto le faccio fare un giro, sto per mettere in moto un autore, però a vendere lo vedo, non le vendo perché Claudio è appassionato, il piccolo gli ho lasciato a lui, bella quella che ho visto che c'è tu, bella io, queste cose mi appare, anche se c'è la ruggine, come stavo dicendo tu, vabbè, ero affascinato, anzi, proprio, molto magari se la attingono, le fanno qualche cromatura che non risalta più come è bella anche invecchiata quella volta. Ciao, quella è tutta originale, l'hai vista la targa? Tratta di 7.3 targata, l'hai vista? Sì, l'ho vista, vabbè, no, lo sapevano con mio figlio. Io sono tutti il motociclismo d'epoca, nel vero, sono, hai capito, e niente, però io in garage non ci metto più nulla perché ho il Suzuki, ho il Ducati 98, ho il Ducati Marchi 350, e la Vespa, c'è un deficit degli anni 80, c'è la mini moto, la Brivia scooter, non mi sa più nulla, non sa la cosa lì che mi ho lavorato, mi servirò che pure io devo riprendere a tutti. Allora, sono cose belle, esatto. Cosa volevo dire? Che moto c'era questo? No, di un cliente, di un amico. Un Benelli del 1928, un Benelli 175 Sport, una moto spettacolare. Nel senso, molto rara da trovare in quello stato lì perché è conservata, non è mai riverniciata, lo stato suo, d'uso dall'epoca. Un po' appassita, diciamo, come verniciatura, qualche cromatura un po' ruginosa, però è una moto bella, veramente una bella moto. Guarda, io ho visto un garage l'altro giorno, proprio andando a piedi a Sassa, se non ricordo in che via era, se in via Parigi, e c'era una porta aperta, oh già, c'erano 4-5 moto antiche, proprio, ma tutte nuove zecca, ma antichissime. Sì, ci sono i miei amici. poi lavorava la Telecom e stanno sempre restaurando, quindi comunque c'hanno delle mani d'oro questo. Però sono amici miei, cioè Salvatore sono un po' che non lo vedo, ogni tanto capitava in officina club, ogni tanto viene, spettano tutti da me, non per vantarmi, ma la maggior parte delle moto le facciamo noi, di quelli di tutte le associazioni, vengono tutti da me, ormai di lì è tutta una catena, quando trovi a uno, accontenti a uno, poi l'altro ti passerà. Ti volevo dire, hai detto un Ducati 98, che Ducati è? Ducati 98, 4 tempi ad altri bilancieri. Il tuo motore è tipo il cucciolo della Ducati, eh? No, c'è il motore tipo la girera. Ma di che anno è? 60. E cos'è? Cambia per... No, quindi cambia a coso, a... sul volante, sul manubrio? C'ha quattro marce a pedale. Ma com'è? Tipo sportiva, tipo la sella lunga? Sì. A me piacciono quel genere di moto. Io ho un Mondial Sport, che è stata la prima moto che hanno fatto in Italia, omologata col cambio 50 Super Sport, Mondial. Se capita te lo faccio vedere. Se vedi come l'avevo preso ti metto la mano in testa. E poi come l'ho fatto, quello è il mio personale. È stata la prima moto italiana del 63, costruita con le marce a pedale, perché i ciclomotori dovevano avere le marce sul manubrio all'epoca. Poi è stata la prima moto che hanno costruito in Italia. Però se la faccio vedere, sicuramente è bella. Spettacolare, no, perché c'è lui, ma mi piace, l'ho presa proprio, a me piacciono il genere di sportive piccoline, non quelle grosse. No, io, siccome ce l'ho già fatto precisa e capito, la lavoravo anche io, no, ma ho avuto gli Scambler, ho avuto più di 7 Ducati Scambler, poi li ho venduti, un altro Marchi 3 avevo, allora quando ero ragazzo ne avevo molto, c'avevo il Kawasaki tricilindrico 750, il Suzuki GS 850 che ho venduto a Grazia Roncalco, il Geometra, non so se lo conosci, le prendi a tu. Se ti capita di andare da Capilli, dove se capi quella via Sant'Anna, guardati quella moto che c'è in vetrina, piccolina, rossa, il tipo chopper. Capilli, ma non è che in corso piccolo Capilli. Ah, Capilli, Maiani, quella è giusta la moto Z, come si chiama, Maiani? Bruno, ce lo conosco a Bruno. Guarda, c'è quel negozio dove vendono olio, pizze, ricambi, accompagnati, vatti a parte, c'è una specie di negozio, c'è una moto rossa, tipo chopper male, ma quella deve essere di grossa cilindrata, ma è piccolina, ma tu devi vedere questa moto, quanto è curiosa. Io mi ricordo i 50 Fantic Moto di chopper, ne avevo fatto per io, a un ragazzo di Caldera che c'era ancora, proprio ti ricordi che erano bianco, c'era stato io bianco, piccolino, con la spalliera, e c'era anche il 125 di quelli, no, poi più avanti lì c'erano le fauce, se sono i fitti, insomma. Ma già, non lo posso guardare, perché mi affascinano queste cose, anche a guardarle, Roberto. No, anche io sono appassionato, poi stavi dominando a Mario Mariani, dille a ver se mi conosce a me, a Mario Mariani, l'altro giorno in officina ogni tanto mi porta qualche cosa, il mondialino me l'ha fatto lui a me, la parte motoristica, proprio, è che non c'ha testa, nel senso un po' disordinato, però a livello di recupero di motori, parliamo motori d'epoca, è il numero uno, non ce n'è per nessuno, gli altri vengono tutti, ma ha fatto un lavoro a me su un motore marino raffreddato ad aria, non a coso, a liquido, tu vedi cosa, nessuno ne ha cavato piedi, quando ve le faccio vedere a dei meccanici, ma anche bravi, non voglio fare nomi per non penalizzare nessuno, l'unico che ne ha cavato piedi è lui, è venuto con la Gigino per metterlo in fase, con la lampadinetta, un attrezzino fatto da lui, trovava appunto molto superiore, stava a girare e me l'ha messo in fase, è uno dei pochi che poi sa anche la teoria, non è solo riparare, è che è un po' disordinato. È venuto l'altro giorno, mi ha portato un po' di fotografie dell'epoca sua, di quando correva in moto, faceva le cose, e me le dai e poi io mi faccio le copie. Ormai mi sono sentito stamattina perché glielo ho detto, se non riesco a pagarla, però lui quando viene al mio guadagno non deve portare nulla perché c'è quella lampadina, c'è tutta la attrezzatura, c'è anche per dare i carburatori, il disco graduato, per queste cose, c'è tutto e non deve portare lui, deve venire solo lui. E forse adesso perché mi ha preso questo raffreddore, ce l'ho domani, non me lo devo far venire perché... Grazie. tipo un rosso amaranto. I paraurti ce li ha, e parafai voglio dire, ce l'ha tipo un ragno, di superragno, una cosa del genere. Ma tu vedi questa volta, è molto molto curioso, è comunque non è il 50, dovrebbe essere il 125 minimo. Quando ti passo guardo a vedere, guardo io ho trafficato molto la roba del Paul, perché che come si chiama all'epoca le faceva lui Ducati a Sassari, quindi io viaggiavo molto con gli scambler e infatti la trattatura signor Romolo specifica la roba qui a me. E così adesso ci parlo meno perché lui non c'è in una casa di riposo, però vado proprio a trovare lui. E niente, vedo un grande amico, un grande maestro, che la cosa mi fanno male, la risparmio. E io, guarda, è una persona che stimo molto, però non so se l'hai conosciuto. Sì, sì, sono brava gente, niente da dire. E cosa? Sono quei meccanici storici, lui, Mazzola, lo conosci Mazzola, Angelo Mazzola? C'è l'altro giorno la signor Angelo, c'è l'altro giorno sono andato a trovare, siccome c'è la roba della Suzuki che era lì, era la vecchia roba che aveva comprati, e qualche cosa c'è, però me l'ha detto, anche c'era lui, anche la moglie mi ha presentato, e quindi ha detto, questa roba è messa tutta così, bisognerebbe catalogare, perché è tutta ammassata, roba, quindi per trovare, io sono andato per l'ingranaggio, magari c'è, perché sopra la cucina c'è un coro, un soppalco, ma dopo che lo cerchi in mezzo a questa roba, ci vuole un giorno di più, e allora sono andato, e mi hanno l'hanno ordinato, ho speso 40 euro, mi ha rifatto, perché è uno, c'è un tornitore tutti e che ricostruisce, però io lo beh, il tornitore lo può fare bene quanto sia, però deve accoppiare bene, l'unica cosa per accoppiare bene al suo è che sia proprio l'ingranaggio originale, quello che ho comprato io, che ho ordinato io, perché a farlo al pugno uscirà bene, però deve accoppiare l'altro ingranaggio, mi hai capito? Sì, vabbè. È anche giusto che sia così, bisogna comprare l'originale che si accoppiano con l'altro, se no il tornitore se te lo fa, ma ti farà un facsimile, non è proprio esatto come te lo danno a casa, diciamo. E poi come si chiama in plastica, quanto li abbiamo fatti, ha detto già in bronzo, in altro materiale per loro, per non rompere, certo, se l'ha fatto così, ho detto, vabbè, la fabbrica, che è fatto non proprio in plastica, è un teflon, un duro. Se l'hanno fatto così sicuramente anche per la rumorosità, per uno scopo, perché altrimenti non vero, perché non glielo avrebbero fatto in ferro come in acciaio come sono gli altri, vuol dire che se l'hanno fatto in quel materiale c'è un motivo, Robert. No, ma poi la Suzuki è una in assoluto, probabilmente la macchina, il marchio che costruisce senza andare a discapito della qualità. Adesso magari attualmente non lo so, però negli anni passati tutti vantavano le moto Suzuki proprio per quel fatto lì, per la robustezza e la qualità dei materiali. Se li facevano pagare, perché a fratello aveva un vecchio DR, andava a comprare un petto, ti costava la rimaccia dei soldi. Però hai speso 40 euro, se magari andava al tornitore ti costava di più. Mariani mi ha detto per 70 euro che lo fa così, però poi ho detto mi faccio un giro o vado da Masera. Masera magari ha detto che fai e cerca lì mezzo a quello, perché c'ha dei carter nuovi, tutti i tipi di queste moto, però la roba è tutta ammassata, e quindi ho detto, dopo la mossa auto, siccome c'è il catalogo ricambio anche, gli ho telefonato, ho detto che ero in grado di ordinarlo, gli ho detto anche come si chiama, ho detto che abbiamo anche il catalogo noi aperto, gli ho detto, siccome no, sono ordini, ho detto ci impiega 2 o 3 giorni arrivare, non è arrivato in 2 o 3 giorni, è arrivato dopo più di 10 giorni, però sono andato e l'ho ritirato, ed è quello, e sto tranquillo, non è detto che si rompe domani, no, se c'era tanto tempo fa, io la volta mi ho cognato, la rotto perché ha messo in moto a spingere, quella moto lì a spingere, lo si mette in moto, è sentato lì, basta che lui, che la moto si ingolfi, io le ho detto questo, mira tu, se quella moto si ingolfa, che tu insisti col pedale, che non metti in moto, cosa succede? Il miscelatore della benzina sta sempre mandando olio, quindi si pieno, non è cilindritorio e molte volte si punta il pistone e piega anche le piede. Io ho vedotto quello perché è così, perché a tavola si è pieno il cilindro di olio, si è pieno. Cosa succede? Non parte, sei golfato, non devi decidere, no? Come gira ti manda anche l'olio, e quello lì addosso. Sì, hai ragione, è proprio quello lì. La mette ingolfata, bastava togliere la candela, pulire la candela, fare dare due colpi a vuoto, col pedale, rimettere la candela e metteva in moto tranquilla. Sì, quello dell'ingranaggio lì è stato rotto, facendo forza per mettere in moto, perché lui me l'ha anche detto, ecco già, è diventata una, la messa in moto, sì, perché il giro carico d'olio, se no quando è perfettamente a posto, già aveva le riciclate, le candela, a mezzo giro, parte che una cosa, hai capito, poi no, quando rimane molto ferma, magari c'è calcolo un po' di scurchi, però non c'è bisogno di smontarli. Io l'altra volta ho soffiato col compressore quando ancora andava, è partita, poi c'erano gli scarichi che fumavano come una ciminiera, poi c'è stata un po', e perché fumava? Perché l'olio era troppo conforme alla benzina, poi c'è stato un po' in moto che è passato, e andava bene, poi si vede che lì c'era qualche dente e si è rotto qualche accidente e è andato a colpare. No, del resto è impeccabile, Roberto. Ma cosa è? Due tempi la moto? Ha due tempi, tre cilindri a due tempi. Quindi è degli anni 70 questa moto? Il 73 mi sembra che sia, e il Suzuki 380 è una scheggia europea, c'è uno scatto, io la paragono a Kawasaki 500, c'è uno scatto simile. Ma io quando Kawasaki 300 era pericolosissimo da guidare, e le manette come ce l'hai con Suzuki? In integre sono? Sì, sono integre, Claudio le ha pulite, le ha, sono integre. Ma la rimasta ce ne ha nuove, però sono andate, sono integre. Vabbè. E niente, io ho avuto 750 il Kawasaki, l'ho dato via, questa moto, vabbè, si impennava in testa, mi si impennava, l'ho dato via a un'altra persona che ne aveva una precisa, perché me l'ha stata data, da un fratello di mia moglie, questa moto qui, e qualcuno ci aveva messo anche la gamba, ci aveva messo, perché ne era caduto l'altro mio cognato, ci aveva messo in piede dei raggi, e ti dico che è stato male veramente, quindi me l'hanno regalata a me, non me l'ho messa di nuovo, però l'ho venduta che non è una moto, vabbè, può essere veloce, però quella moto lì non c'aveva nessuna affidabilità né come tenuta di strada, come niente, era pericolosissima, ce l'hai o non ne aveva, c'era solo motore. E all'epoca facevano pure le gare le grosse marche giapponesi per avere le prestazioni, però a discapito della sicurezza c'era quel Kawasaki, cos'era, il Z900, non mi ricordo cosa era, che era pericolosissimo lo stesso, era troppo potente per il telaio. Poi io mi voleva dare il 500, no, ho detto, ci ho fatto pure il 750, c'è un Pima che l'ha preso al mio, poi lo so che fine ha fatto. Beh, ti ricordo uno, che la moto l'ho fatta correre, avevo il 750 sul Suzuki a Cardano, guarda, l'ho fatta andando a tempio, a velocità, però era quella moto era sicurissima, no, il Kawasaki quello lì era, per l'amor di Dio, sa come gente è morta, anche a Sassari qualche uno è morto, molto, e mi ricordo all'epoca che a questo le l'aveva sbalzato in via Umberto il giorno che l'aveva acquistato, una specie di, mi ricordo di roba del genere, comunque pericolosissimi a tutti. Lo sai così, cioè, che rispetto al motore il telaio non ce n'era, ecco perché la presa di colore, se impennava in terza e quarta è un omicidiale, poi essendo leggera, essendo tutto motore e telaio leggero, è uno che tenuta di freno ne aveva. Infatti non c'è questo limousine che ce l'ha ancora, ed è il secondo modello del 750, ci sono i carburatori da stare fermo, sono gli spilli da cambiare, l'autografia lascia la sale, lui c'ha anche il Ducati Marchi 3, preciso al mio, quello tesimo però, ho detto lascia la sale, che c'è una certezza, lascia la dopo e far chiedersi, che io vado a far via, che fuori via con la bocca a fuoco, perché col fratello, con una moto del genere, è molto uno di Chiesi, non solo penso avervi sentito quell'incidente che era successo tanti anni fa d'estate ad Alghero, lì non mi ricordo dove fu il cacchio e se è proprio legato andando alle bombarde. E nel frattempo di questo che ti sto dicendo, con la due piedi, quel piedi è morto. Lui non so quanto ospedale ci ha fatto, mi ha detto, e ci aveva come nel caduto della campagna queste spine dove si è caduto nei cosi dei giochi, guarda una cosa, robe allucinante, quindi tra l'altro Calvino lascia la robe, lascia le pome a coca, che adesso Calvino ci avrà minimo e più di 60 anni, perché è molto più grande di me, e la voleva mettere a posto, lascia la fare. No, ma sono molto... Come ripeto, non è come ha detto Mari, l'affidabilità e la sicurezza viene curata ai massimi livelli. Prima invece si guardava solo le prestazioni, mettevano motori di potenze esorbitanti con telai inutili, con valicenti troppo alti, la moto non teneva la strada, come acceleravi si sollevava davanti, le gomme non erano poi all'altezza delle prestazioni, per cui non servono a niente. Le gomme, cioè le moto, mi ha certezza, sei su due ruote, puoi essere più bravo quanto vuoi, ma devi essere attento anche agli altri, oltre che a te stesso, per cui lasciamo perdere. A me piacciono tanto le moto, mi sono fatto male due volte, l'ultima volta abbastanza male, per cui ho lasciato perdere. Ho finito con le moto, me le prendo, me le restauro e me le curo, me le guardo, però a portare le moto lasciamo perdere. Cosa volevo dire? Avevo una in officina in vendita sino a un paio d'anni fa, non so se l'hai conosciuta, la Yamaha XT 1100 Cardano, una bellissima moto del 78 ed era del fratello di Canaris, della Velina, di Luigi. C'erano ormai 4 anni, non si riusciva mai a vendere, alla fine gli ho detto, beh, fa una cosa, la trapporti via, alla fine, come li avevo trovati un paio di acquirenti, ma poi sempre ci cischiava, ma me l'ha messo a posto, faccio, alla fine ho detto, beh, fa una cosa, la trapporti via o se non la vendi, alla fine gliel'ho fatta vendere. Svendere anzi 800 euro, ma quella era una moto allucinante, faceva all'epoca 230 km orari, non so se te la ricordi, era la moto di Mascia, che poi anche lui è morto in moto. Il fratello della Dio Mattorgia, quella non mi sono più vista, comunque era una moto nera Yamaha 1100, una di quello bellissimo, quella è una moto del genere, però non so se quella roba è capito, ma io no, assolutamente, era una roba pericolosissima, no, non ci vado, manco molto più, che ragazzo, tutte le fine per collezione, che sono cose veramente delicatissime che... Capito, non è roba perché tu ti trovavano, non la mia corre di più, trovavano le prestazioni, succedevano, io a caso non ho creato mai fastidio per la moto, perché ci vuole testa a guidare la moto. Mio figlio gli ho fatto bene da grande, ci aveva una Aprilia preparata, che era 180, riciclata la corsa, e non era molto per lui, l'ho comprata così, però anzi, gli ho fatto bene perché, capito, è meglio andare sulle quattro ruote. Purtroppo è così, no, due ruote, bella, se si va con prudenza. Ma purtroppo quando hai una moto le cose si ritrattano, ti piace sempre più tirare e poi si finisce che si fa, ti si può far male, dai, la media su quattro ruote e sei più tranquillo, anche che il pericolo c'è anche su quattro ruote, però sei sempre su quattro ruote e non su due. Ma di nuovo la macchina, se ti sbatti che lo stai correndo molto, non ti fai niente. Però nella moto, anche se stiamo andando piano, che ne carichi, tiro più sopra il collo, e che bisogna vedere anche come cade uno. L'unica europea all'epoca sicura di moto era la Lambler, dai, 750 Lambler, ve ne fa poco, però come tenuta di strada, la Lambler è la moto, che era niente di Sassari che aveva la Lambler di luglio, che era la Lambler, Sassari, non mi ricordo adesso come capo si chiamava, e poi c'era la morte con questo Cipriani, mi sembra che era proprio il medico, questo morto un comando 754, quelli erano già più affidabili, ma non parliamo delle morte giapponesi, può arrivare, ripetiamo questo. Sì, sì, la Lavender era una bella moto, ne ho fatto una un paio di anni fa, un 750, bellissima moto, arancione, colore Lavender. No, ma poi sono uscite le giapponesi, parliamo con le GSX, la serie Suzuki GSX, poi il Kawasaki Z1R, che è una moto, bella moto, e anche, diciamo, apprezzatore, però erano già un po' più bilanciate come moto, però rispetto a quelle vecchie a due tempi che erano pericolosissime, però... C'ho amici che ci sono morti, non so se conosci, se l'hai mai sentito nominare, Francolino Meloni, tu. Esattamente, già per fare una Suzuki mi sembra 150, confermi quello della rettifica, già fa anche una Ducati ha avuto lui. Quello ha avuto un po' di tutto le moto, perché era grande appassionato, campione sardo di coso, di go-kart, proprio era uno che molto ci sapeva andare, però purtroppo è morto, nel pezzettino prima di arrivare a Conforama, quel rettilineo di lì, gli è uscito un camion, l'ha preso in pieno sul cercione e si è frantumato. E ha avuto altri incidenti, ma non a quei livelli, purtroppo è andata male. E come lui ne conosco tantissime di persone che sono andate a fine. Però lui era uno di quelli, all'epoca era il numero uno a Sassari, era quello più bravo di tutti. Poi c'erano tutti gli altri, la Fontaine, Giochina, eccetera, eccetera. Però lui era uno di quelli che la moto la sapeva portare. Era andato in mezzo alle motture, il padre era delle rettifiche, ci faceva anche gare in salita, eccetera, eccetera. Non ricordo io, c'era il Ducati Scambler che avevo anche prima e lì diciamo l'operò può essere bravo quando si sia, però capita, si tagliano la strada, si tagliano le queste cose qui, io il giorno che cavolo siamo finiti, lì che come c'è una briglia che sto facendo 30 mila scooter, è lavorato con tutti questi, vola quando passa a casa della mamma, che passa vicino a casa e colla per la moto, però è pulito di casa. Con le protezioni, però diciamo che una sera ricasando la spenta, non so come cavolo è andato, c'era stata toccato il freno e caduto a faccia a terra tutti i denti, meno male che conoscevo, non so se lo conosci, che è anche collezionista di moto, ha salvato le domeniche di dentista e me la sono scappata con pochi soldi. Cappagliavo purtroppo i denti, sono cose pure delicatissime. Ok, beh signori, io vi devo lasciare perché mi hanno chiamato dentro, è arrivata l'ora della pappa. Ciao a tutti, come al solito, ben sentiti tutti e due, ciao Gianni, ciao Antonio e tutti gli eventuali amici, ci risentiremo in altre occasioni se va bene. Ciao ciao, buon rete da parte mia. Ciao Roberto, grazie per la compagnia, saluta il cuore familiare, anche tuo padre, persona veramente splendida e guarda, ho detto che chiacchiero con voi molto volentieri. Se capito di te a Sassari adesso in quella gola, non ci capirò quando sono in quella gola già, mi affaccio sempre Alberto a salutarvi, vuoi bene Antonio, anche io non mi trattengo che scendo un po' la stufa perché qui c'è freschezza, diciamo, li prendi Antonio per i saluti a Roberto. IH, salutone Roberto, buon QRT, buon tutto, salutone a te, QR a famiglia, tutte le migliori. Aspetto il tuo finalino e poi facciamo girare per Gianni, va? Sì, va bene, grazie a tutti e due, dai, ciao ciao, di nuovo QRT, ciao ciao. Grazie, grazie Roberto, grazie. E così alto, anche io adesso me ne scendo un po' per la TV con la gente, perché se no è a dire perché il grande vive con papà, e lì c'è l'altro figlio con mia moglie Andrea che li ho lasciati come altri, e no, l'apparecchiatura vuole accesa, di nuovo, hai capito, si guasta tutto, niente, alto, tutto lì. Sandro l'ho sentito, quindi è stata, diciamo, un po' l'abbiamo passata. E domani, se non c'ho altro da fare, tanto che sicuramente ci sentiamo su questo canale. Per il momento ti rimetto il cambio e ti saluto. Buon tutto per domani, Antonio, mi credi? Ho fatto molto piacere già averli ascoltati. Buon tutto anche a te, buon QRT, buona carica, buon tutto e tutte le migliori. Ciao, Gianni.